dico che stanotte, guarda, ve lo dico anche in frequenza, non altro, perché c'è 20-12. Vattene a far culo, sotto. Vabbè. Ha capito, vabbè, che lo do in frequenza, tuo numero, 26-20-12.